Euroreportage. Il mercato unico tra Europa e Stati Uniti alla prova del Datagate, di Cristian Elia e Angelo Miotto. Black Queen on the Red King, Miss Solitaire. My name is Bond. James Bond. 5 giugno il quotidiano The Guardian rivela l'esistenza di un sistema di spionaggio negli Stati Uniti che coinvolge la compagnia telefonica Verizon, che con Microsoft, Yahoo, Google e Facebook sarebbero stati coinvolti nel rifornire informazioni al sistema PRISM della National Security Agency. Monitorate non solo le telefonate, ma anche milioni di email e account web. Edward Snowden, rifugiatosi a Hong Kong il 20 maggio, si rivela come l'autore delle informazioni. Il 30 giugno, nuove rivelazioni di Der Spiegel. PRISM spiava anche l'Unione Europea. Bruxelles chiede spiegazioni agli Stati Uniti, i toni sono duri, alcune cancellerie dei singoli Stati membri dicono chiaro che i negoziati sul Transatlantic Trade and Investment Partnership, cioè la costruzione di un mercato unico per merci, investimenti e servizi fra Europa e Nord America, sono a rischio per lo spionaggio nordamericano. Il mercato unico fra Europa e Stati Uniti è messo alla prova dal Datagate. Sentiamo la voce di Manuel Barroso, il presidente della Commissione europea. Negotiations on the TTIP are and will remain a top priority. In parallel, it is important to address concerns that have been clearly expressed on the European side on some intelligence activities. Qual è la linea del Presidente della Commissione? Ce la spiega Angel Beremlischi, press officer degli uffici della Commissione europea in Italia. Uno studio che la Commissione ha messo a disposizione sull'impatto dell'economico di questo accordo dimostrava appunto un beneficio per l'economia europea dell'ammontare del 0,5% di PIL all'anno, che significa 119 miliardi di euro. È importante che si dia risposta ad alcune preoccupazioni che sono state sollevate da parte europea in numerose occasioni a seguito del cosiddetto Datagate. Diciamo, certe attività di intelligence e soprattutto come queste attività possono impattare sulla questione della privacy, della garanzia della protezione dei dati a livello europeo. Vediamo allora cosa prevede questo trattato in questione, perché per molti analisti si tratta di un accordo che potrebbe andare a scavalcare le politiche ormai consunte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Antonio Tricarico di Recommon.com. Il principale interesse, diciamo, che accomuna Stati Uniti e Europa è nell'idea di voler raggiungere, come posso dire, un quadro regolamentatorio incluso, unico per un'area di libero scambio così grande, incluse le modalità con cui risolvere le controversie sugli investimenti, eccetera, eccetera, mirerebbe in un certo senso a scodellare degli standard unici che poi questo grande blocco cercherebbe di imporre, o comunque di negoziare con forza per imporli, soprattutto con le economie emergenti. Quindi questa relazione, diciamo, di potere oggi esistente in un mondo multipolare, sembra allora si potrebbe leggere questa mossa di Europa e Stati Uniti e la voglia di fissare qualcosa che chiaramente vada oltre il WTO e che debba diventare poi il nuovo standard un po' per tutti, se si riesce poi a imporlo, a inserirlo nei vari accordi. Salvatore Iacolino, europarlamentare del Gruppo Popolare Europeo, ci illustra la sua posizione, che è netta per quanto riguarda i limiti che gli Stati Uniti non dovrebbero oltrepassare nella salvaguardia delle libertà individuali dei cittadini europei e sullo spionaggio che riguarda l'attività di trattata e sullo spionaggio che riguarda l'attività di trattativa su accordi commerciali. Sentiamo i nostri microfoni. La questione legata alla Datagate ha certamente raffreddato quelli che erano considerati ottimi rapporti di collaborazione, di cooperazione fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea. Questa sostanziale pesca a strascico che è stata determinata da uno spionaggio che ha superato ogni limite di ragionevolezza e accettabilità ha provocato una difficoltà di relazione che si sono peraltro che hanno influito notevolmente anche sul negoziato che vi è in essere in questo momento sull'accordo di libero scambio fra Unione Europea e Stati Uniti d'America. In concreto, con una risoluzione approvata il 4 luglio di quest'anno, quindi nei giorni scorsi, abbiamo in Parlamento Europeo dato, come dire, un indirizzo politico concreto con la creazione di una commissione d'inchiesta per accertare concretamente quello che è accaduto, se vi sono delle responsabilità, e nel contempo una tutela effettiva dei cittadini anche attraverso percorsi da definire di risarcimento. Il prossimo incontro è il 5 settembre, non vi dubbio che vi è grande interesse su una violazione dei principi essenziali di privacy, di riservatezza di cittadini, ma anche di ambasciate. La reazione europea, secondo lei, al di là ovviamente di difendere i cittadini dell'Unione, è stata anche così forte, e così forte è stato il vostro impegno anche in vista del fatto che i patti devono essere subito chiari rispetto a un trattato di libero scambio e commercio così importante come quello che si sta disegnando? Ma guardi, lo spionaggio del quale stiamo parlando non riguarda soltanto aspetti militari o altre questioni di natura, se vogliamo, squisitamente politica. Vi è uno spionaggio industriale, allora lo registriamo anche nella reazione molto forte della Germania al riguardo, e non v'è dubbio che un nuovo accordo di libero scambio è essenziale. Noi non possiamo, come dire, penalizzare due volte i cittadini europei, prima da questo atteggiamento davvero inconsulto da parte delle autorità statunitense, che hanno sostanzialmente dall'11 settembre 2001 innalzato la soglia di attenzione per garantire la sicurezza dei propri cittadini, ma trasformando in ossessione una giusta esigenza appunto di protezione e di sicurezza, e dall'altro evitando di portare avanti, anche se si va evidentemente a rilento, un negoziato che dovrebbe determinare ricchezza, valore aggiunto in entrambe le sponde del transatlantico. Noi siamo per consolidare questi rapporti basati su una cooperazione forte fra gli Stati membri dell'Unione Europea e dall'altra parte gli Stati Uniti d'America, ma certamente confidiamo, per esempio, che il ministro di giustizia Holder risponda alla signora Reding, la vice commissario in Europa che si occupa di affari interni insieme alla Malmstrom, che ha chiesto una dettagliata relazione su quanto è accaduto, ma comprendiamo bene quanto disagio e quanta difficoltà vi possa essere in un atteggiamento prevaricatore che è stato fin qui posto in essere da parte degli Stati Uniti d'America. Non v'è dubbio che le nostre attività intese ad ascoltare il Ministro di Giustizia, l'ambasciatore, la stessa, i rappresentanti della stessa agenzia per la nazionale sicurezza statunitense saranno mirate anche a comprendere il ruolo avuto da quei fornitori di servizi privati di internet, Google, Yahoo per esempio, che sono statunitense, che rappresentano il 95% delle attività informatiche in Europa. Ancora Antonio Tricarico di RedCommon.com su quali sono adesso le ripercussioni della vicenda Datagate rispetto al Transatlantic Trade and Investment Partnership. Nulla di nuovo sotto il sole, è chiaro che questo pone delle questioni di come armonizzare, se vogliamo, anche in operazioni del genere gli atteggiamenti di europei e statunitensi in un contesto in cui, se davvero vogliono mettersi insieme, devono poi capire come sfruttare un certo vantaggio competitivo. Questo, secondo il mio giudizio, poi solleva la vera questione centrale che dicevo all'inizio di questa chiacchierata, cioè noi siamo in una fase in cui questo negoziato è partito perché in fondo l'Unione Europea è più debole oggi rispetto al passato nei confronti degli Stati Uniti, che stanno uscendo di sicuro molto meglio dalla crisi. L'amministrazione Obama non ha nascosto che questa è stata un'opportunità che loro hanno colto, e quindi, così come nella relazione Datagate gli europei ci hanno da perdere, chiaramente anche in questo negoziato complessivamente potrebbero perdere qualcosa di più, e questa è una questione puramente di carattere politico. We'll be right back. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.